Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e miei ascoltatori. Un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 658. Una puntata questa con belle note di jazz dall'Italia, ma anche con qualche novità dall'estero, come sempre, per tenerci informati e per godere anche delle diversità di linguaggio che sono sempre stimolanti, interessanti. Cominciamo subito con del buon jazz italiano, firmato Gianni Ragusa. Gianni Ragusa è un esperto chitarrista, musicista di grande sensibilità, che insieme al conosciutissimo Vito Di Modugno al basso elettrico e all'organo e a Michele Di Monte alla batteria ha realizzato per la 4 Records un bel CD intitolato The Right Thing. È un CD nel quale Gianni Ragusa si esprime anche con delle belle composizioni originali. Belle composizioni originali che si accoppiano anche con composizioni originali di Vito Di Modugno e di altri musicisti che hanno fatto la storia del jazz contemporaneo, come Chick Corea, come Wayne Shorter. Sicuramente un disco godibile dal primo all'ultimo pezzo. Io stasera vi voglio proporre il pezzo che apre l'album, che si intitola Snoop, ed è una composizione originale di Gianni Ragusa. Buon ascolto. Thank you. Questa era la musica di Gianni Ragusa, che dal CD The Right Thing, pubblicato dalla 4 Records, realizzato insieme a Vito Di Modugno al basso elettrico e all'organo e a Michele Di Monte alla batteria, ci ha fatto ascoltare questa composizione originale intitolata Snook, che apre l'album. Una composizione, come avete sentito, sciolta, fresca, libera, con dei fraseggi molto creativi, fantasiosi, e che mettono in evidenza intanto la grande esperienza, la grande professionalità, la grande preparazione tecnica di questo musicista, e nello stesso tempo anche la sensibilità, la capacità di vivere la musica con grande interiorità e grande partecipazione. Sicuramente importante e determinante la presenza degli altri due membri del trio, Vito Di Modugno, che ci ha allietato con i suoi assoli di organo, e la sottolineatura precisa e nello stesso tempo sensibile, senza mai strafare, senza mai venire avanti più di tanto, sempre molto equilibrata, del batterista Michele Di Monte. E lasciamo Gianni Ragusa, questo ottimo nostro chitarrista, per andare a fare un salto di curiosità negli Stati Uniti. Lo faremo attraverso Steve Jones. Steve Jones si presenta per la prima volta in Anima Jazz, è un batterista ma è anche un compositore che ha realizzato un bel CD intitolato Family, e l'ha fatto con tanti ospiti che sono Debbie Keefe Jones, Daryl Jones, Dave Stryker, Bob Devos, tutti professionisti molto interessanti e stimolanti. Steve Jones alla batteria, Debbie Keefe Jones al sax tenore e soprano, Daryl Jones al basso sia elettrico che acustico, Dave Stryker alla chitarra e poi Bob Devos alla chitarra in alcune tracce. Si dividono i due chitarristi le varie tracce di questo progetto discografico. Un CD sicuramente gradevole all'insegna del mainstream, piacevole dalla prima all'ultima traccia. Stasera noi ci ascolteremo una composizione del chitarrista Dave Stryker intitolata Shadow Boxing. Buon ascolto quindi con Steve Jones e il suo ensemble dal CD Family. Thank you. l'energia travolgente di questo bel pezzo che ci ha presentato Steve Jones con il suo gruppo. Si trattava di una composizione originale del chitarrista Dave Stryker intitolata Shadow Boxing, tratta dal CD Family. Il leader del gruppo, Steve Jones, alla batteria ha sottolineato con grande maestria, accompagnato da uno strepitoso Daryl Jones al basso, che ha fatto un assolo incredibile, e bravissimo anche il sassofonista Debbie Keefe Jones, che ha sottolineato con fraseggi di grande maestria questo pezzo. L'assolo iniziale di Dave Stryker ha messo in evidenza la sua grande professionalità, con fantasia di fraseggio e una bella capacità anche di scrittura, una bella composizione ricca tra l'altro di grande energia. Lasciamo il gruppo guidato da Steve Jones e ritorniamo in Italia. Ci ritorniamo con un gruppo di grande qualità che io sto seguendo fin dalla loro nascita. Si tratta di Note Noir, un gruppo di ottimi musicisti, di ottimi strumentisti che rivisitano con grande capacità interpretativa composizioni della tradizione swing manouche, pezzi della tradizione della musica latinoamericana, ma che esprimono anche una propria musica, specialmente in questo ultimo progetto appena uscito intitolato Oltre Confine, dove sono presenti anche molte composizioni originali che esprimono non solo la grande preparazione di cui ho detto prima sul piano tecnico, ma anche la capacità compositiva, la capacità di far proprio un progetto discografico con proprie idee, con un proprio percorso, un proprio viaggio. Sono tutti musicisti capaci di esprimersi al massimo delle capacità tecniche, e quindi mi viene da dire che è una sorta di gruppo di all stars. Roberto Beneventi, straordinario fisarmonicista, Ruben Ciaviano, uno dei più grandi violinisti che si esprimono qui in Italia, anche se nato a Cuba ma ormai adottato a tutti gli effetti qui nel nostro paese, con grande amore, con grande affetto e con grande stima. Mirko Capecchi, uno dei giovani contrabbassisti più interessanti e validi del panorama nazionale. Tommaso Papini, estroso chitarrista non solo di jazz manouche, molto bravo, e quindi si tratta di un gruppo di ottima qualità. Come dicevo prima, in questo CD c'è questa novità del molto gradevole delle composizioni originali che non erano così presenti negli altri progetti che costituiscono il passato progettuale, il passato discografico di questo gruppo, ed è stata una bellissima sorpresa. Le composizioni sono molto interessanti e c'è una bella complicità di gruppo, la complicità di gruppo che chiaramente nei live si avverte e si vede con grande evidenza, ma la si avverte anche attraverso questi progetti discografici. Stasera noi ci potremo ascoltare una composizione originale scritta dal fisarmonicista Roberto Beneventi e dal violinista Ruben Ciaviano, intitolato Inverno Gitano, dal CD Oltre Confine. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era la musica di Note Noir, questo straordinario gruppo formato da ottimi musicisti quali Roberto Beneventi alla fisarmonica, Ruben Ciaviano al violino, Mirko Capecchi al contrabbasso e Tommaso Papini alla chitarra. Il CD in questione appena uscito è intitolato Oltre Confine, come dicevo prima, ricco di composizioni originali dai vari colori espressivi. Stasera ci siamo ascoltati Inverno Gitano, una composizione originale di Roberto Beneventi e Ruben Ciaviano. Bene, lasciamo l'ottimo gruppo di Note Noir ed andiamoci ad ascoltare Vance Thompson's 5 plus 6, un'orchestra diretta appunto da questo ottimo musicista che è Vance Thompson, che tra l'altro ha realizzato un progetto molto particolare andando a ricercare materiale popolare e country e rivisitandolo in chiave jazz. Si tratta di un'orchestra che è partita inizialmente da una formazione di quintetto al quale poi è stato aggiunto un elemento di sei fiati, di sei musicisti che hanno portato a 11 l'intero organigramma dell'orchestra, diretti da Vance Thompson. Il progetto discografico è intitolato Such Sweet Thunder e noi da questo progetto discografico ci potremo ascoltare Isfahan. Buon ascolto con Vance Thompson's 5 plus 6. Thank you. Bene, questa era la musica dell'orchestra diretta da Vance Thompson's 5 plus 6, come dicevo prima, un'orchestra che è partita dal quintetto di base di Vance Thompson's, al quale poi è stato aggiunto questo gruppo di sei elementi, di sei fiati, per creare appunto un'orchestra di 11 musicisti che hanno vissuto questo progetto pensato da Vance Thompson di recuperare materiale folk e country dalla tradizione americana e rivisitarlo in chiave jazz, come avete sentito, una chiave jazz che ci riporta ai fasti delle grandi orchestre degli anni 40. Vance Thompson's 5 plus 6 dal CD Such Sweet Thunder che ci ha fatto ascoltare Isfahan. E adesso andiamo avanti con una cantante. Si tratta di Aimee Butcher, che dal CD The World Is Alright, sua ultima pubblicazione, ci farà ascoltare Autumn in Paris. Aimee Butcher è una cantante canadese che ha una preparazione molto solida e che vive l'approccio con il jazz in modo piuttosto originale, cerca una strada propria e lo fa con dolcezza, con grazia, sentirete anche con una gradevolissima impostazione vocale. Aimee Butcher dal CD The World Is Alright, Autumn in Paris. Buon ascolto. Trees of red and green and gold lie underneath the pale blue sky. So beautiful and so bold, upon the soil the leaves fly. I will always want to stay in a dream that became autumn in Paris. City streets and passing cars, the busyness all around. The people come from near and far, a city love is what I. Touch my heart. Someday I will make my home in France a place to start. Days will come and pass away, but one thing still remains the same. I will always want to stay in a dream that became. Questa era la voce gradevole di Aimee Butcher, che dal CD The World Is Alright ci ha fatto ascoltare la sua interpretazione di Autumn in Paris. La cantante canadese, come avete sentito, ha una grazia particolare nella sua espressività e riesce sempre a coinvolgere con dolcezza e con morbidezza. Adesso lasciamo la cantante canadese Aimee Butcher per ritornare ancora una volta in Italia e ci ritorniamo con Paolo Sorge, uno dei più grandi chitarristi di ricerca particolari in Italia. Si tratta del nuovo progetto discografico realizzato con Improvvisatore Involontario, nel quale Paolo Sorge è alla chitarra, chiaramente, visto che è il suo strumento principe, con il quale si esprime da sempre ai massimi livelli, insieme a Carlo Cattano al flauto, sax soprano, Marco Caruso al sax alto, Gaetano Cristofaro al clarinetto basso, Sebastiano Bellarte al corno francese, Alberto Fidone al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria. Un bell'ensemble per proporci una composizione originale intitolata Divergenze, tratta appunto da questo ultimo CD pubblicato da Improvvisatore Involontario intitolato Ring Like, un CD, come sentirete, ricco di sonorità veramente interessanti. Paolo Sorge, buon ascolto. Complice, mi viene da dire, quello che ha presentato insieme al suo leader Paolo Sorge questa Divergenze, questa composizione originale tratta dal nuovo CD di Paolo Sorge intitolato Ring Like, pubblicato da Improvvisatore Involontario. Paolo Sorge è un chitarrista di grande esperienza, sicuramente di grande coraggio, che ha progetti alle spalle molto particolari, molto interessanti, un musicista che ha spaziato e continua a spaziare con grande curiosità, con grande proprietà di linguaggio, con sicuramente quella sicurezza professionale, ma anche quella curiosità interiore che gli fa vivere ogni progetto sempre con dei risultati molto validi, molto interessanti. Il gruppo è formato da Paolo Sorge alla chitarra elettrica, cura tutte le composizioni di questo progetto discografico, Carlo Cattano flauto, flauto alto, sax soprano, Marco Caruso sax alto, Gaetano Cristofaro clarinetto basso, Sebastiano Bellarte corno francese, Alberto Fidone contrabbasso, Peppe Tringali alla batteria. Lasciamo Paolo Sorge ed andiamoci ad ascoltare un altro chitarrista, un chitarrista che anche lui ha sempre vissuto la musica come un'avventura da scoprire, un percorso sicuramente imprevedibile, interessante, tutto da scoprire. Si tratta di Claudio Lodati, che in questo nuovo progetto discografico intitolato Animal Spirit cura il suono della chitarra, fa degli interventi vocali, cura i loops e i live electronics. Da questo nuovo progetto discografico di Claudio Lodati noi ci ascolteremo proprio Animal Spirit, il pezzo che dà il titolo al CD. Buon ascolto con Claudio Lodati. Bene, questo era Claudio Lodati dal nuovo CD Animal Spirit. Claudio Lodati ci ha proposto proprio il pezzo che dà il titolo al CD, una sua composizione originale nella quale avete ascoltato questo gioco di elettronica e questa tensione fortissima, quasi drammatica in certi punti, dei suoi assoli chitarristici. Claudio Lodati non è nuovo a progetti così particolari, sempre impegnato nelle sue composizioni con ottimi risultati. Il CD è stato pubblicato da Setola di Maiale. Adesso concludiamo questa serata con un altro artista che ha sempre dedicato tutta la sua vita alla musica di ricerca e di sperimentazione. Sto parlando del batterista e percussionista Mauro Orselli, che ha realizzato un nuovo CD intitolato Resistere e Persistere per sola batteria, un progetto di circa 57 minuti. Chiaramente adesso vi proporrò un piccolo estratto. Buon ascolto con Mauro Orselli. Queste erano le tensioni, le forti energie espresse dal batterista e percussionista Mauro Orselli, attivo dalla fine degli anni 70, coraggioso progetto questo Resistere e Persistere, che vede un unico pezzo di oltre 57 minuti che mette in evidenza la grande potenza, la grande esperienza e il grande coraggio di questo ottimo musicista. Con Mauro Orselli e il suo ultimo CD Resistere e Persistere si chiude anche questa puntata numero 658 di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.